Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera ci occupiamo di un altro carburante alternativo. È il turno dell'idrometano, che è un mix di metano e idrogeno che può essere utilizzato per alimentare i motori a combustione al posto della benzina. In realtà diciamo che questo idrometano si può bruciare al posto del metano, poi uno lo brucia un po' dove vuole. C'è un esperimento ormai molto avanzato però nel settore della mobilità a Ravenna, un progetto che si chiama MyBus. Ne parliamo con Stefano Valentini, che è responsabile del progetto MyBus per conto di Aster, che è il consorzio che in Emilia-Romagna si occupa di trasferimento tecnologico, cercando di mettere insieme enti di ricerca e realtà industriali. Buonasera Valentini, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo quindi da questo progetto. C'è un bus a Ravenna che già ha fatto un bel po' di chilometri con questo tipo di alimentazione, con l'idrometano. Sì, ad oggi abbiamo raggiunto già 15.000 chilometri, okay, e contiamo di arrivare al termine dell'anno a 45.000 chilometri e concludere la sperimentazione per ottenere poi finalmente l'omologazione finale. Questi ultimi 10.000 che abbiamo fatto, li abbiamo fatti con passeggeri a bordo, quindi un cittadino di Ravenna, perché noi facciamo questa sperimentazione a Ravenna, può prendere l'autobus a idrometano. Ecco, ma quali sono i vantaggi? Spieghiamoli un attimo, perché mescolando un po' di idrogeno al metano si ottiene qualcosa di buono? Ad oggi abbiamo rilevato un risparmio, quindi una riduzione di emissione di CO2 del 15%, un po' sopra il 15%, e un risparmio di consumo, quindi meno carburante consumato, del 13%. E questo con una miscela che è composta per il 15% di idrogeno e l'85% di metano, è così? Sì, in volume. Ok. Questi sono risultati che abbiamo certificato anche a banco. Cioè facendo proprio le misure. Esatto. E diceva poi c'è stato un aumento di efficienza, ed è da qui che nasce in realtà l'idea di utilizzare l'idrogeno, di mescolare un po' di idrogeno al metano in questi autobus, vero? Assolutamente sì. Questi autobus a metano si chiamano lean burn, cioè utilizzano una miscela molto, molto magra, con quindi un rapporto di carburante e ossigeno molto bilanciato sull'ossigeno, con tanta aria insomma. Esattamente. E questo che effetti ha? E questo porta a un calo dei rendimenti e della potenza erogata. Inserire un po' di idrogeno migliorava le caratteristiche di combustione di questi motori a miscela magra. Abbiamo provato diversi tenori di miscela, quindi dal 5% al 25%, e abbiamo visto che il 15% è quella che dava i migliori risultati. Migliori risultati, d'accordo. Quindi quello che diciamo coniugava meglio la riduzione delle emissioni e quant'altro con comunque delle prestazioni adeguate dei motori a bordo di questi mezzi. Ecco, senta, perché da un certo punto di vista si potrebbe obiettare, fare un'obiezione diciamo di fondo all'idrometano, cioè l'idrogeno è un vettore energetico molto pregiato, noi ne parliamo come di qualcosa che dovrebbe servire un domani a produrre energia elettrica bruciato all'interno di celle a combustibile, e sembra un po' sprecato, come dire, mescolarlo al metano e spedirlo dentro un motore tradizionale. Perché invece questa operazione oggi ha senso? Oggi ha senso perché noi lo riusciamo a utilizzare direttamente in un veicolo senza portare modifiche sostanziali. Quindi noi sul veicolo, sull'autobus, abbiamo ottimizzato la centralina, quindi i parametri di combustione, non abbiamo fatto nient'altro. Stravolgimento. Normalmente bisognerebbe fare un autobus a celle a combustibile o avere delle automobili a celle a combustibile che hanno dei costi assolutamente esorbitanti. Cioè lei dice, se vogliamo usarlo un po' questo idrogeno dobbiamo introdurlo così, bruciarlo con delle tecnologie tradizionali se vogliamo, no? È un po' questa l'idea, altrimenti continuerà a rimanere una parola. Esattamente, miscelandolo abbiamo comunque dei rischi limitati, lì abbiamo fatto tutto uno studio con l'Università di Pisa per dimostrare che il rischio di infiammabilità era paragonabile a quello del metano, quindi anche tutta la normativa della sicurezza è paragonabile al metano. Quindi lo possiamo proprio usare, infatti stiamo trasportando passeggeri, siamo in un regime di sperimentazione, quindi il centro prove autoveicoli, il ministero ci sta, siamo sotto osservazione, però a compimento della sperimentazione ci attendiamo un rilascio dell'omologazione finale. Tra l'altro, una cosa di cui si parla poco è che, al di là delle tecnologie di punta che siamo abituati ad associare all'idrogeno, come appunto la cella a combustibile, poi in realtà c'è tutto il resto della componentistica che è più tradizionale, ma che comunque deve essere adattata all'idrogeno, no? Assolutamente sì. Sul nostro territorio ci sono tantissime aziende, siamo leader nell'utilizzo dei gas compressi, quindi sui materiali, sulle tecnologie di compressione abbiamo avuto tantissime manifestazioni di interesse, perché il tema è visto come molto strategico. Quindi anche le prove sui materiali che dovremo fare, perché comunque dobbiamo anche verificare la tenuta dei materiali. Ecco, per esempio, che cosa cambia quando si usa l'idrogeno rispetto al metano? Ci sono alcuni materiali che hanno un comportamento proprio diverso, sì, no? Si chiama il fenomeno dell'infragilimento, quindi perdono... diventano proprio più fragili, no? Esattamente, esattamente. E quindi noi dovremo verificare se anche in caso di esposizione alla miscela si effettuano questi fenomeni e eventualmente modificare il materiale con cui questi componenti sono fatti. Quindi valvole, tubi, sistemi di compressione, bombole, robe, tutta questa roba qua non è esattamente identica se ci mettiamo dentro l'idrogeno, se ci mettiamo il metano, e tutta questa componentistica ci sarà sia che bruciamo l'idrogeno in un mescolato col metano in un motore a combustione, sia un domani quando spediremo dell'idrogeno a una cella a combustibile. Il tubo è sempre quello, esattamente. Insomma, bisogna sviluppare tutta questa roba. Va bene, grazie a Stefano Valentini. Grazie mille. È tutto, a domani.